Intanto buonasera, benvenute tutti quanti, le signore e signori, e un particolare saluto stasera al gruppo Poesia 83 che viene da Rovereto, ma i cui componenti direi che oltre che appartenenti alla città di Rovereto provengono da un po' da tutta la regione. Di questa iniziativa ringrazio anche Roberto Marino che è qui con noi, che si è fatto promotore in questi mesi affinché ci incontrassimo, ci ritrovassimo e potessimo organizzare questa bella serata dedicata alla poesia. Il gruppo Poesia 83 è un gruppo, è un'associazione culturale che, scusatemi se vi do la schiena, ecco, è un gruppo che ha 30 anni di vita, quindi è un'associazione vitale, piena di energia, di entusiasmo, che continua la propria attività e non è una cosa da poco, ecco, essere così longevi nel tempo con queste proposte culturali. È una settimana questa che l'abbiamo definita una settimana roveretana, ecco, perché i nostri legami anche con Rovereto sono intensi. Giovedì sarà la volta appunto della presentazione di almeno i nomi, avete la possibilità di prendere anche le cartoline. E quindi insomma si rinsaldano questi legami anche a livello regionale. Sarà una serata particolarmente interessante questa, perché avremo anche l'accompagnamento musicale e verranno lette molte di queste poesie che sono state raccolte in questi anni, sono state composte da tante persone ed è un bel modo di comunicare sentimenti e di descrivere anche degli aspetti del quotidiano che a volte sfuggono, ma il poeta sa come restituirli all'attenzione di tutti noi. Io vi ringrazio di aver aderito, ringrazio Giuliano Arvelli, ringrazio Italo Bonassi e tutti i membri dell'associazione Gruppo Poesia 83. Un cordiale saluto agli amici della poesia e della musica. Siamo insieme per conoscere il gruppo Poesia 83 del Trentino Alto Adige e Veneto e per la presentazione della nostra quarta antologia dal titolo 30 anni insieme. Anniversario che abbiamo festeggiato il 28 settembre 2013 a Rovereto, nostra sede legale. Bolzano e provincia è il luogo di nascita di alcuni dei nostri soci e siamo particolarmente lieti per il cortese invito. Ringraziamo quindi la responsabile, la signora Valeria Trevisan, e tutti i collaboratori. Desideriamo darvi il benvenuto con la musica, il maestro Stefano Cattoni e la sua chitarra per il preludio e gli intervalli. Buon ascolto. Thank you. 30 anni insieme, 1983-2013. Nel corso dello scorso anno, per il nostro trentennale, ci è stata consegnata una targa da parte dell'Associazione La Cultura della Provincia di Trento, dal dottor Franco Panizza, oggi senatore della Repubblica. Leggo il contenuto perché esprime in sintesi la nostra attività. All'Associazione Culturale Gruppo Poesia 83, in occasione del 30° anniversario della Fondazione, va il sentimento riconoscente dell'intera collettività trentina per aver rappresentato un costante stimolo alla conoscenza della letteratura poetica espressa sia in lingua italiana che nelle parlate dialettali. Operando in sinergia con altre realtà culturali a livello nazionale e internazionale, ha dato stimolo all'attività di produzione letteraria attraverso la realizzazione di un'interessante rivista specializzata e curando l'organizzazione di un premio che ha raccolto adesioni di poeti provenienti da ogni parte d'Italia. Con stima e amicizia, firmato dall'assessore Franco Panizza, ora senatore. Io volevo dirvi che alla fine del nostro incontro avremo il bando di concorso per chi ama scrivere poesia, c'è ancora tempo fino a marzo, e poi anche i nostri quaderni che potrete vedere se vi piacciono, e se vi piacciono andrà a finire che ce li richiederete. Grazie. E naturalmente l'antologia dopo, naturalmente, per chi vuole avere un ricordo. La nostra quarta antologia, un volume nato con una veste raffinata che in prima di copertina presenta un'opera della pittrice Isabella Moser di Gardolo Trento dal titolo Abbandono, mentre in quarta di copertina ci sono le foto dei soci presenti nell'antologia. Si apre con l'introduzione del nostro presidente, dottor Italo Bonassi, cui seguono diverse riflessioni di alcuni di noi. L'opera è come un incastro delle tessere di un mosaico che disegna il piacere del fare, l'entusiasmo del progredire, il sapore della sfida, le tensioni vibranti della complicità che porta a superare gli ostacoli, ed è anche la carica emozionale del crearsi mentalmente l'obiettivo e di volere fortemente il risultato. Tutto questo è stato per noi il traguardo dei 30 anni. Il pomeriggio quindi si snoderà tra parole, poesia e musica e sarà come un certo fiorito di voci e stili diversi. Vi ringraziamo di essere con noi. A questo punto lascio lo spazio al nostro presidente per un cenno di saluto e riflessione. Buonasera. Prima cosa, anch'io come responsabile di questa associazione voglio ringraziare la dottoressa Valeria Trevisan. Prima cosa. Seconda cosa, voglio anche ringraziare il nostro socio di Vadena, Roberto Marino, che ha fatto i primi approcci. Qui abbiamo due soci, Bolzanini, uno di Ora e l'altro è di Vadena. Ancora quando lui ha fatto i primi approcci, quando io ancora neppure sapevo che la responsabile della biblioteca fosse la figlia di mio carissimo amico, che è stato testimone di nozze, che quando io mi sono sposato con la signora qui vicina. Siamo sposati a Bolzano, non voglio più in che chiesa. No? Siamo anche noi di Bolzano. Non voglio neanche più che io ero meranese, per favore. Sì, poi sono passato a Bolzano, sono diventato bolzanino, ecco, sono diventato bolzanino. E poi abbiamo dovuto trasmigrare sempre lungo l'asta dell'Adige, giù fino a Rovereto. Sì, e il gruppo Poesia 83 è nato a Rovereto, infatti inizialmente si chiamava gruppo Poesia 83 Rovereto, poi sono cominciato a entrare degli autori di Trento e di altre zone, allora abbiamo perso la seconda parte del nostro nome ed è rimasto gruppo Poesia 83. Infatti attualmente su 25 scrittori, poeti, quelli di Rovereto sono 5. E quindi non ci possiamo più chiamare gruppo Poesia 83 Rovereto. Di questi 25, 3 sono di Verona, provincia di Verona, due di Bolzano, poi altri di Mori, di Ala, un po' rappresento un po' in tutto il Trentino. Ecco, qui tengo anche a ringraziare il mio... a ringraziare? Perché ci ha unito il matrimonio, non ci ha unito il matrimonio, ha fatto da testimonio al nostro matrimonio, il dottor Piero Trevisan, che non è, per me e per noi meranesi era sempre Pubi, non è mai stato Piero, quindi per me è difficile chiamarlo Piero, sono sempre abituato a chiamarlo Pubi, un bellissimo soprannome. Hai due testimoni del matrimonio, hai due testimoni. Sì. Perché c'è anche Guido. Guido è stato il testimonio, Guido è stato il testimonio di Giuliana, e Pubi, scusa se ti chiamo Pubi, è stato il mio testimonio, quindi vi ringrazio. E spero che non vi annoiate. Qui ci sono gli ultimi nostri quaderni che escono regolarmente ogni due mesi. Abbiamo la fortuna, ce li stampa la provincia di Trento. Io non faccio altro che spedirli per email. La provincia di Trento, speravo anche di arrivare con l'ultimo, ma l'ultimo numero, quello di gennaio, sarà pronto dopodomani, quindi non ce la faccio. Vi ringrazio tanto e speriamo appunto di non annoiarvi troppo. Grazie. Qualche altro cenno sul gruppo Poesia 83. Voi avete capito che ha preso il nome dalla fondazione, il gruppo ha conosciuto variazioni e piacevoli sorprese e conta attualmente, come avete sentito, 25 soci autori e due musicisti. Le regioni Trentino Alto Adige e il Veneto sono così rappresentate. La sede legale è a Rovereto e noi abbiamo due musicisti, Stefano Cattoni che è qui con noi e che ringraziamo perché ha dovuto fare i salti mortali per raggiungerci, e Matteo Fiorentini, entrambi di Trento. Dal 1986 riveste il ruolo di presidente il dottor Italo Bonassi, vicepresidente Silvana Gottardi e qui con noi c'è la segretaria Nives Cristoforetti. Giuliana, che sono io, Raffaelli, oltre che scrivere versi, sono la voce ufficiale del gruppo, ho il compito di presentatrice e leggo talvolta anche poesia e prosa altrui. E il 2013, come abbiamo detto, è stato importantissimo, però io desidero anche citare dei fiori all'occhiello che abbiamo. Il Premio Letterario Nazionale in Lingua e in Dialetto La Rondine, siamo alla 16ª adesso nel 2014 edizione, al cui interno è presente il Premio Fabrizio Vaccari per sezione Giovani. Un altro fiore, il periodico bimestrale Quaderni, che voi potrete dopo prendere nota o magari avere, che di anno in anno riscuote un grande successo e numerosi consensi. E poi a fianco del nostro gruppo ruota un folto gruppo di soci simpatizzanti, circa 200 pensate, che dietro un modesto compenso, le pure spese postali, ricevono i 6 numeri annuali della rivista Quaderni, che è un bimestrale. E questo è il piacere reciproco, autori e lettori, per rimanere sintonizzati con l'attività poetico-culturale, vivendola in simbiosi. Questo è il... Italo ha già citato che alcuni di noi provengono proprio dalla provincia di Bolzano e allora non sto a ripetermi, però hai nominato anche Thomas? No, non ho detto nessun nome. Ah no? Allora, Roberto Marino che è di Vadena, Thomas D'Addezio di Ora che è qui con noi, che ci farà sentire anche lui alcune poesie, e io che vengo da Bolzano, Italo che viene da Merano, sottolineiamo Merano, perché altrimenti se la prende, infatti è una bellissima città Merano, per forza. Quindi questa sera sono presenti è una piccola rappresentanza del nostro gruppo, non si potrebbe andare tutti insieme a raccontare le poesie, quindi Italo Bonassi Rovereto, Nives Cristoforetti Trento, Roberto Marino Vadena, Maria Antonietta Rotter di Povo Trento, Thomas D'Addezio di Ora, Giuliana Rovereto e Roberto Caprara, dov'è? Di Ala. Ecco, sarà il rappresentante anche questa sera della poesia dialettale, roveretana in questo caso, che è molto più bella di quella trentina. Ecco, e come avete notato abbiamo il nostro Stefano, che adesso vi dico anche qualcosa di lui. Ognuno offrirà, ci saranno due momenti poetici. Nel primo ognuno di noi due poesie, poi intercalato della musica e altre due poesie. Il maestro Stefano Cattoni, perché adesso è il momento del secondo spazio musicale, è un valido musicista, sempre a fianco del gruppo Poesia 83 quando i suoi impegni professionali glielo permettono. Fa parte della nostra associazione ed è il nostro poeta della chitarra. Ha alternato per anni l'insegnamento all'attività concertistica, dal 96, anno in cui incontrò il grande maestro Lirio Diaz, si dedica soprattutto alla musica. Vero virtuoso, è un profondo conoscitore del repertorio di ispirazione popolare venezuelano e spagnolo. Numerosi suoi concerti a livello nazionale e all'estero. Nuovamente per noi Stefano Cattoni. Poesia, come la musica, è azzurro, azzurrità infinita contro cupi cieli di tramontana. Andiamo a raccontare. Inizia Italo Bonassi, con due poesie, dicevamo, nel primo giro. Forse devi stare un po' più vicino. Io ogni tanto sogno mia madre, anche mio padre. Dopo aver fatto un sogno di mia madre, ho scritto una poesia in cui dico: mamma, ti ho incontrata in un sogno, ti ho sognata, mi sono messo a parlare, a chiacchierare con te. Poi quando è stato il momento di lasciarci, ti ho detto addio mamma, ci vediamo in un prossimo sogno. In un prossimo sogno, come se fosse una prossima vita. Madre della memoria. Entra nella camera e si siede dormo, sto sognando, ma la sento, presenza immaginifica, la vedo così come nel sogno. Son tua madre, mi fa una carezza e un bacio. C'è il guizzo di una lampada che acceca. La guardo, ma non è che un'ombra lieve, tremula, mani, occhi, bocca di madre. Il resto di fantasma. Lo so se è una visione, un desiderio. Resisti, sopravvivi anche nel sogno. Germogli nel pensiero, vita e morte, madre della memoria. Mi delizia la sua chiacchiera. È rimasta sempre quella, la morte non la cambia. Un gioco atroce, il sogno, la vedo e non la vedo. Mamma ora è un'ombra che si smaglia. Mani, occhi, bocca, e il resto spettro, effimera ed eterna. Benedetto sogno che mi ridai mia madre, anche se per poco. Voce e occhi di madre, un bacio e una carezza e un dirci addio, un ciao o un buongiorno. E senza trauma, senza dramma, basta anche un solo dirci ci vediamo a un altro incontro, mamma, a un altro sogno. E dirci, e non dirci di essere vivi o morti, sapersi raccontare qualcosa senza piangere e tacere agli altri o ti prendono per matto. Subito a sud di Rovereto c'è una frazione, si chiama Marco, proprio come nome di uomo, Marco, dice la famosa ruina descritta anche da Dante, quella ruina che di qua da Trento l'Adice percorse, vero signora, che ha insegnato? Ha insegnato al liceo classico Carducci, dove io anni prima ero scolaro al Carducci di Merano. Allora in questa frazione c'è una strada che è tutta curva, tornanti. Anni fa, non molti anni fa, su una piazzola c'era una 600 ferma con una donnona alta, grande e grossa, dentro nella 600, non sapevo neanche come faceva a starci dentro tutta, forse qualcosa ci rimaneva fuori, e faceva il mestiere più antico del mondo. Si chiamava Luciana e tutti quelli che passavano la vedevano questa signora, la chiamavamo la Lucianona, la donna di Marco, ricordo della Lucianona. Lungo la via che porta a Marco c'è da anni una donna grassa che non lesina di certo amore alla gente che passa. Siede nella sua 600 e sorride come una matrona, una minigonna come Dio vuole e in grembo un girasole. La gente dice è una puttana, sta come un'orchidea sfatta nella pinguedine di una corolla rosa. E fra tanto vento e tanto sole sorride come una bambola di porcellana. Forse mi sta in una mano il suo piccolo cuore di fragola, ma lei, anche se grassa, non vuole, dice di no, va da allodola col sole, sorride e fa di sì alla gente che passa. Nives Cristoforetti. Mistici spazi, isole perdute in un mare di nebbia, sporadici effimeri momenti emersi dal niente, perle disperse senza conchiglia, petali sparsi, dimenticati, asperità su sconfinate distese, ore rubate all'informe del quotidiano, mistici spazi d'azzurro pensiero. Ebbrezza, nella bolla di un tempo inesistente, lontano dal graffio degli eventi, ma avvolge il ricordo nella luce di setta del passato che non è stato immaginato. L'emozione mi fece correre nel vento, scavò abissi, spalancò la porta dell'infinito. Devo dire che Anche la nostra Nives è figlia d'arte, come Roberto Caprara. Il padre era un famosissimo poeta dialettale della Vallagarina di Ala, Nando da Ala. Se qualcuno ha dei ricordi del Trentino, senz'altro l'ha sentito nominare. E Roberto Caprara, che è di Ala, il papà era, ma a me viene da dire anche se non c'è più, è Giuseppe Caprara, e abbiamo un importante premio letterario, che la cerimonia avviene in novembre, quindi c'è tempo anche per mandare alla biblioteca, alla signora Trevisan, il bando, adesso che la conosciamo, vero? Ecco, bene. Ora tocca a Roberto Marino di Vadena. Io posso dire che Roberto è il responsabile, coordinatore di un gruppo di poeti che si è creato qui in Alto Adige, in lingua italiana, gruppo poeti d'Unterland. Spiega in due parole cosa vuol dire quel d'Unterland. Buonasera, è un gruppo nuovo che si è formato nel 2012 e comprende poeti un po', diciamo, della zona da Bolzano fino a Trento. Bolzano, Baden, Aora, Lavis, Cavalese e Trento. E è nato in Bassa Tesina, però poeti d'Unterland non sta tanto come poeti della Bassa Tesina, ma poeti come di una terra bassa, di una terra umile, però un po' misteriosa, che cerca di mandare avanti la poesia in varie località in modo anche un po' originale. Però forse più avanti avremo più occasione di farci conoscere. La vedete da lontano? È una pittrice di Trento che fa parte del gruppo d'Unterland. Guardate quanto è bello questo disegno e anche quelli interni che ci saranno. La chiamiamo la poetessa della matita, perché lei fa dei bellissimi disegni. Come la matita, poeta della chitarra, e sembrano delle poesie. Bettina Seidel, dice Bettina. La pagina. Come dici? La pagina dove legge. La pagina leggo a pagina 193. Tutti gli anni. Il libro può seguire, sì. Si idealizzano grandi cambiamenti, ricomprando scarpe e vestiti nuovi. Ma il coraggio non c'è quasi mai, quindi si fanno e curano semplici cose. L'insalata dell'orto, lavoretti per la cantina, per la casa tutta. Tuttavia, spesso si aiuta la gente povera, come noi, delle verità. Verità scioccamente ricercate nelle televisioni e sui giornali. Poi si sta a guardare dalle finestre le curiose camminate del tempo. Bolzano Strada. Pagina 195. Ci vivo in periferia, ma io l'amo. La dolomitica città frizzante di tutte quelle donne bolzanine che fanno figli italiani e tedeschi. Bolzano strada, di gente e veicoli, spazianti tra fiumi, prati e note vie. Ne conosco le vecchie cartoline, mostranti le carrozze coi cavalli che passavano sul ponte Talvera, dirette verso i palazzi del centro. Ne conosco i colori dei vestiti che camminano oggi su via Grappoli per fare acquisti di cose nuove. Nei bar del caffè e del vino spumante si intrecciano le voci della strada, di un insieme di commercio e cultura. Città di fiori e di nevi invernali, così conserva l'aspetto di una signora coi lunghi capelli. Maria Antonietta Rotter di Povo, Trento, in collina, vero Maria Antonietta? 300 metri di altitudine. Prego. 247, se volete la pagina. A mia figlia, vorrei vederti con la tua vestina dai fiori azzurri e il collettino bianco corrermi incontro lieta quando a sera rincaso dal lavoro, il passo stanco. Vorrei vederti coi primi tacchetti delle tue scarpe, non più da bambina, mentre ravvivi il sorriso col rossetto e lo specchio ti mostra signorina. Vorrei fermare il tempo e non vedere anche sul viso tuo la prima ruga, e che fosse per te sempre il dolore quello che un bacio tenero rasciuga. Ma non si ferma il tempo e io son vecchia, mentre anche tu sei diventata donna, e più non basta un dono o una carezza a illuminare il tuo sguardo di Madonna. Amore, mi sono svegliata stamane con dentro nel cuore l'amore. Poiché non sapevo a chi darlo, ero sola, ho amato la foglia ed il fiore sul mio davanzale. Ho amato il respiro del vento a scompigliarmi i capelli e il volo ancora inesperto di un uccelletto da nido. Poi mi era rimasto nel cuore ancora un poco d'amore e allora ho fatto una cosa da tempo dismessa. Mi sono sorrisa allo specchio e un istante ho amato pure me stessa. Ed ora Thomas D'Addezio di Ara. Buonasera a tutti. Questa poesia l'ho scritta neanche tanto tempo fa, in ricordo di delle gite che facevo con una donna che volevo molto bene. Camminando insieme, il tuo passo fu lento e cauto, come fiocchi di neve quando si posano pacati su se stessi. Piano piano risalimmo il colle, con gli zaini tenuti sulle spalle. È un frullo, un tenue sonito, tra lo smuovere improvviso delle foglie si udì lungo il rivo. Ci fermammo per adocchiare, è una rondine vi scorgemmo, che dalle frasche di un albero spiccò il volo verso il cielo. E tutte le volte mi indicasti le miriadi di fiori sui prati, sparsi in tanti colori diversi, cercando di farmi apprezzare le varie bellezze della natura, che è vita, cambiandomela. La gioia di vivere ritrovai nella semplicità delle cose esistenti al di là di me stesso. Grazie a te che sei donna, per crescere e divenire uomo, indirizzando la mia strada mai percorsa fino in fondo, seppure uscito dalla nebbia. Infinito. Quando lenta scese la notte e solo una timida luce brillò nello spazio, si aprì nel mio cuore un dolce profumo d'amore. Se solo potessi varcare oltre i confini della realtà con le sensazioni dell'essere per giungere in dimensioni più profonde dell'esistenza. Lo so, fui alquanto ingenuo con una donna la prima volta. Benché innamorato per davvero, come disperso nel vuoto del nulla, in una dolente spirale senza fine. Ma quando si apriranno finalmente le porte centrali della mia anima, avrò superato la soglia dell'infinito. E ora tocca a me, Giuliana Raffaelli. C'è tempo. Sto facendo un viaggio dentro il tempo. Il tempo di oggi fugge ed è un po' troppo rapido e chiedi alla tua vita di farlo rallentare. Cerca il tempo che ti porta a contemplarti dentro e poi ad alzare gli occhi su nel cielo fino a perderti lontana tra le nuvole. Osservo su un muro un graffito che dice che c'è tempo. Tempo, c'è tempo. C'è tempo se lo vuoi, se hai coraggio, se hai forza di cercare le cose più importanti della fama, più ambite del successo. E cerco ed ho trovato il tempo per ascoltare i figli, tempo per ascoltare la gioia e il dolore degli altri. Trovo bella assai la tartaruga del parco che vado attraversando. Tempo animale, lento, saggio. Mi viene nella mente l'espressione latina festina lente. Affrettati lentamente. Gelo d'inverno. Il gelo della fontana si è irrigidito in una lama trasparente. Le cornacchie volano basse e si rialzano deluse. Nemmeno un insetto da mangiare. C'è un gran silenzio stamattina al parco. È bello il parco, nell'aria che taglia, nel vapore dei respiri. La neve è venuta da sovrana a prendersi il giardino. Il grande freddo che strozza nella notte, il getto di una fontana che spezza i germogli prematuri. È immagine della morte. Il tempo è stato colto in un'imboscata da un nemico che muto si è messo di traverso al suo cammino. Bello questo candore, il silenzio che assorbe e vela ogni rumore. Ciò che rende sostenibile e perfino affascinante il culmine dell'inverno è la certezza che fra un mese la fontana tornerà a gorgogliare e le forsizie saranno ancora in fiore. Roberto Caprara. Buonasera. Io reciterò nel dialetto della Bassa Vallagarina. Andrò un po' piano, spero che capiate, ma è abbastanza capibile. Pagina 103. L'albero degli euro. È cresù, in tel me orto, drio un macion de rosmarin, n'alberot pien de moneda da 1 e 2 euro. Lotte in due breva tut l'am, adesso le lì slusent e maù che mi aspetta. Ho messo intorno una ramà, se no slusor ci aveva gli useletti e mi manca già 5 o 6 tocchi. Già è tempo avevo provato a piantar carte da 100, ma le ha ciapala per ogni euro, la pronospera dell'euro, che desti tempi, anche se te sbianzi, ma ne ha fortut prima che le butta. A pian palpo i tocchi che sdindola sui rami e ne tiro zo una desina. Vago a provveder felice di aver inventato la moneta biologica. Ma intanto che girevo tra i banchetti del mercato a cucare i prezzi delle verdure, ho pensato, denar de volta, cavar su tutte e somenar salata, capuzzi e carote. '99. Dese a dese. A 20 anni non ho mai pensato. A 30 lo stesso. A 40 quasi mai. A 50 delle volte. A 60 che penso. A 70 che penserò di spesso. A 80 ancora di più. A 90 forse le ora, ma aspetta un momento, che fretta che è. A 100 non mi ricorderò più niente e scomincerò la conta di nuovo. Uno alla volta, pian pianin, così si slonga la mia poesia, o forse magari avrò solo sbagliato i conti. affidarsi alla musica per sondare i recessi del cuore. Il nostro poeta della chitarra, Stefano Cartoni. Che siamo in piena atmosfera, saluto e ringrazio per la presenza due mie sorelle, Marisa ed Erika. Poi abbiamo mio cugino Pierpaolo, che è un validissimo attore e lettore, e gli amici carissimi Guido ed Erika, e Pubi e Laura. Grazie di essere con noi. Grazie. Poesia, ancora poesia, creatività e stili diversi, un'idea del viaggio e della conoscenza all'interno del mondo del colore, dell'avventura e del mito. Riprendiamo il racconto. Italo Bonassi. Si può dire il gioco? Per stare chini. Non avete mai pensato come sarebbe bello poter vivere una seconda volta, una terza, una quarta, una quinta, chissà quante altre volte, e ogni volta, magari, ritrovare gli amici della vita precedente. Dice, oh Mario, ancora tu, come ti vedo? Ti vedo bene, meglio dell'altra volta. Ciao Piero, sei sempre qui anche tu, così via, no? E ritrovarci tutti quanti anche nelle vite future. Sarebbe una cosa meravigliosa. Gianni, sei tu? Questa è la vera vita, colma di ombre e di luci. In tutto giù itinere, procede fino all'ultima salita, poi scende parabola e digrada verso una non ben chiara uscita, donde di là da quella torni ad un'altra infanzia e ti risvegli giovane, ma sempre tu, col tuo dolore e la tua gioia, a ravvivare eternamente la tua anima come un ritorno di fiamma, tu nuovo sempre, tu perdutamente eterno, tu che vai e vieni fino alle ultime salite e alle altre uscite e altre infanzie, in un via vai di vite su e giù nel tempo, e noi a stringerci la mano, a rallegrarci, a dirci arrivederci, a dopo, a farci complimenti, a chiacchierare tra noi senza programmi né illusioni, di quanta vita ancora si ha da vivere e farci ripeterci gli auguri. Piero, sei tu, sei ritornato, Mario, e a ridere e a farci festa grande, ma non di meno consci di tornare ancora a stringere altre mani, a chiacchierare con altri, Piero e Mario. Questa è la vera vita, ritornare sempre, ogni volta, e via via più giovani, a ridere, piangere, a gridare, Gianni, sei tu, sei ritornato, Mario. È una tematica sempre quella. Io immagino che sono ritornato a vivere una seconda volta. Apro l'uscio di quello che era stato il mio appartamento della vita precedente. Entro dentro, c'è soggiorno. È quello. Il corridoio, camera da letto. Nel tinello, in cucina, sento una che sciacqua che lava i piatti. Dico, è mia moglie. Ritorno dove sono già stato, giù in terra, ma in una città diversa, un sogno, e non mi sembra di sognare, aprire l'uscio della casa, mia prossima dimora, e fare le scale a due di corsa, il cuore in gola, e raggiungere poi l'uscio con la targa. Leggo il mio nome, Piero dalle donne. Torco la bocca e penso, non mi piace, no, non mi va, era meglio l'altro, quello di un tempo, Italo Bonassi, quello di un tempo... quello di un uomo che ero io una volta. Apro la porta ed entro curiosando di stanza in stanza, cauto, e cerco lei, una donna che possa essere mia moglie. Mi siedo su una seggiola ed attendo nel fuoco di un mattino tutto luce. La sento lavorare nel tinello. C'è un rumore di acqua e di stoviglie. Canta mentre sciacqua le posate. Voce di donna triste e sconosciuta. Non so chi sei, se dopo seduta, se t'ho tenuta stretta fra le braccia, canta voce di donna innamorata, di un uomo come me che non conosci, canta, e cantando fa il mio nome, Italo, e non Piero. Canta donna, canta, e ritorno l'uomo che già ero, canta, lei che non sa che è la mia donna, e intanto l'acqua scorre nel lavello. Canta e lava e sciacqua e poi ripone sullo scolapiatti le stoviglie, le pentole ed i piatti e le posate. Canta e non lo sa che è la mia donna. Nives Cristoforetti. Catena del Tribulaum, congrega di streghe maghe gnomi, nella ridda dei sentimenti sarabanda di urla, risale il vento l'ampia catena del Tribulaum, alte le croci, a sedare il burrascoso convivio, in basso, sulla parete, nel grottesco ghigno, gli occhi, vuoti di tempo. Vuol dire per il Tribulaum, una bellissima montagna dolomitica in Val di Fleres, vicino al Vipiteno, c'ha un aspetto dolomitico. È le vostre montagne, no? Non è molto conosciuta. Sono tutte no? Nostre. Tribulaum si chiama. Sì. A Colisarco, bisogna arrivare a Colisarco, c'è una via laterale, si chiama. Grazioso rito. Nel magico calore della breve estate, un misterioso fulvo serpente maculato oscilla pauroso in grazioso rito l'ondulato corpo. Roberto Marino. La donna che non c'è. Non lo si sente quasi mai parlare, il ragno nell'angolo della casa che lavora senza farsi pagare. Da lì guarda il muoversi di persone, predatori con facce da vittime, ed aspetta l'aria primaverile, delicata, profumata di fiori, e lo sguardo di una donna che non c'è e non si sa se vorrà ritornare. Poi come seconda poesia, invece che una mia, vorrei leggere una di Marzia Todero, che fa parte sia del gruppo Poesia 83 e dei Poeti d'Unterland, è la vicepresidente del gruppo Poeti d'Unterland e sta preparando un lavoro importante sull'Olocausto e quindi non può esserci questa sera. Allora penso che Italo e Giuliana sono d'accordo, certo. Anche perché collaboriamo sempre, le due associazioni collaborano molto. Ecco, possiamo dire che Marzia Todero sarà a Palazzo Libera di Villa Lagarina il 7 febbraio per il nuovo libro di poesie di Italo. La tua anima. Voglio la tua anima, entrarci e sedermici dentro. Voglio dormirci e sognare, toccare i suoi angoli più bui. Voglio la tua anima, voglio usare le sue pareti per incidervi le mie parole. Voglio respirarla e nutrirmene. Voglio che la luna vi stabilisca dimora, soppiantando i suoi oscuri abitanti. La voglio per accendervi il fuoco, la voglio per giocarci senza regole, la voglio affinché il corpo cavo si unisca alla mente satura, la voglio per trovarne scampo. Maria Antonietta Rotter. Storia di una piccola pera. Una piccola pera, rimasta sopra il ramo, si lamentava forte del suo destino gramo. Che ne sarà di me? Perché mai sono nata? Perché son piccolina, mi hanno trascurata? Ma poi venne l'inverno, e allora un uccellino trovò della perina al cuore zuccherino, e quando cadde a terra fu cibo un topolino. Le disse il vecchio ramo, vedi che sei servita? Mai a nessuna vita è stata data in vano. Sotto le foglie morte, serena poi, la pera dormì per aiutare l'albero a rifiorire al sol di primavera. Sensazioni. Sconnessa. Una scatola vuota di vecchio cartone stamane mi sento. In un canto due briciole secche e di polvere grigio un mucchietto, quello che resta di me. Thomas D'Addezio. Nonostante l'inverno, una poesia estiva. Bene. Si chiama Sottomarina, così si chiama la spiaggia a Chioggia. Allora, sulla mena sabbia del deserto Lido è scoccata l'ora della mezzanotte, le onde lente sulla battigia, e noi il roteare delle stelle guardavamo nel limpido cielo adorno di lumi. Il raro silenzio notturno trovato lungi il chiasso cittadino lasciato alle nostre spalle, con i problemi nauseabondi che affollano l'aria. Parlavamo con due vocine blande sull'erta vita precaria vagabonda che nell'Italia del 2000 abbonda. Ma più fragile è d'una foglia che cade dalla pianta, forse ignara di cadere, sei tu, Marina. È sparuta la sponda della mia persona alla quale t'affidi. Non lo vede nessuno, ma è pesante, ti giuro, il macigno che porto meco. Forse l'alba nuova che sulla spiaggia contempliamo, nell'attimo effimero di un mondo bello e senza violenza, ma per poco tempo sul deserto Lido. Come te ne ho ben poca di speranza, resiste svelando ogni fatua parvenza. Guarda, si desta un gabbiano dal nido. E adesso l'ultima, che ho scritto 2 settimane fa, subito dopo la prima nevicata a valle. Posso dire una cosa? Il nostro Thomas è entrato nel nostro gruppo dopo che avevamo ormai in stampa l'antologia. È per quello che lui legge dal suo quaderno. Sì. Però nelle prossime, se saremo fortunati, fra 5 anni ci sarà anche lui. Il sessantennio, facciamo il sessantennio. Come il sessantennio? Allora ce ne vuole. E ci vedremo tutti qua fra altri 30 anni. Prima neve. E risorge la luna, quasi piena, in una comune notte stellata, nel cielo d'inverno senza nubi, illuminando i crinali dallassù e le buie campagne silenziose. Spicca nell'oscurità la sua luce, rendendo visibilmente chiara la massiccia catena montuosa della bassa Tesina, imbiancata con la neve fresca, scesa copiosa l'altro giorno fino a fondo valle, coprendo il tutto con un manto candidamente morbido e bianco. Che festa quando un bimbo ero, osservando gaio quelle nevicate, cesellando dei pupazzi di neve assieme ai compagni di scuola, con molto più zelo dei compiti impartiti dai maestri per casa. Basta poco per divertirsi bene. Pagina 223. Tempi di saldi. Di nuovo saldi. Mia figlia, 15 anni, mi trascina come un ostaggio da un negozio all'altro. È un fuoco d'artificio di giovane vanità. Le vetrine la stregano. Mi sequestra e mi porta con sé, complice ed ostaggio. Osservo smarrita in questo emporio pile infinite di maglioni e jeans a prezzi stracciati. Sono sommersa, schiacciata dalla roba. E questo rock a volume insopportabile martella, percuote, mi stordisce. E lei cerca furiosamente la sua taglia nel mucchio. Sudo, ha un caldo torrido. Un'afa da 40 gradi. E lei che è sempre lì, che prova 6 o più cose insieme. Ed ecco, vedo che ne esce e sbuffa contrariata e mi trascina in altri 2 negozi ancor più grandi. E finalmente decide e va alla cassa. Clienti in coda come profughi. Non so perché mi faccia strapazzare in giro da lei, io che odio i saldi, perché lei è la vita in persona e con lei tutto sembra un gioco e lei cresce e non mi porterà con sé per sempre. Voi sapete che a Rovereto, città della pace, c'è il colle di Miravalle con la campana di tutti i caduti. Allora, Colle di Miravalle è un pensiero poetico per Maria Dolens. È la campana. Già detto. È il nome della campana. Il nome della campana, sì. Maria Dolens. Indolente. Pagina 226. Indolente si sfalda la luna piena, scrivendo nobili rune tra gli alberi. Striscia d'argento e liquido sentiero per passi insicuri nel buio. Opalescenti lucciole fluttuano tra i nastri d'erbe in fosforici splendori, mentre le lucertole guizzano veloci tra i sassi e lungo i muri. La magica strada della sera porta al passato, nicchia segreta e tenerezza quasi perla, chiusa nella poesia. Sogno e silenzio, e pallide le madri lunari acconsentono, le mani protese il pensiero poetico omaggio ai loro cari, presente a Maria Dolens. Roberto Caprara. Pagina 104. L'oroloi. Tic tac, tic tac, e martello in la testa, corre le lancette in stormenie dal girar. Pirla il tempo, come una trotola, carga de sogni, de vent, angosse, amor. Endrio non se pol, en vanti voressem quando senzoveni, per frenar da veci. Con la sosta carga te sei paron. Passa le ore in tanche slusio come sortiva entra i sassi, in cerca de fresc. Robo ogni momento alla vita, quel che si scrive o scancella entra in tic e tac. Questa non c'è, questa qua è una nuova produzione. Eurolandia. Se ciapo il spray, ghe magno le rece. Così diceva un poro veciot, pena sta in banca. Non l'aveva capì niente, sol che il ghe rimette ogni dì che passa. I vanzotti della pensione, ormai carta strazza. Così diceva il direttore. Nessun sa come le fat, e cresce, il cala, su e zo, come in guindo il famà come in luz. Una roba virtuale che magna schei veri, fatti de carne. La pensa d'aspettarlo fuori dalla banca per conoscerlo. Dopo mesi che ghetende, non l'ha visto nessun. Non sa chi l'è, ma tutti ne parla. Rassegna l'ha scritto sul giornale. Cercasi entità sconosciuta che vive tra i titoli di borsa, mangia i nostri soldi, sparisce senza lasciare traccia. Chi avesse notizie o informazione scriva urgentemente a Tony Porocam, via Ciavada Granda, Eurolandia. Mi sa che siamo tutti d'accordo. Prego Stefano per la musica. Thank you. di salutarci desideriamo proporre la nostra quarta antologia, 30 anni insieme, e per chi la volesse acquisire. E poi vi diamo in omaggio i nostri quaderni, che sono di alcuni nostri bimestrali. E quello che esce in gennaio di quest'anno lo avremo pronto solamente il giorno 25, che saremo a Rovereto per il Buon Anno con tantissime associazioni e amici della poesia. Quindi se qualcuno vuole venire fino a Rovereto, ditecelo che vi spieghiamo dove siamo. Poi questa sera desideriamo anche lasciare il nostro bando di concorso La Rondine, c'è ancora tempo per aderire, il termine ultimo cade in marzo e la cerimonia di premiazione cade il 1° aprile 2014. Primo giugno? Allora mi sono sbagliata. Comunque il termine però di consegna è marzo, il 15 marzo. Quindi chi ha qualcosa nel cuore può benissimo partecipare. Allora, 30 anni insieme, il lampo di una giovinezza. Si tratta di un lungo cammino che ha richiesto e richiederà pause di riflessione, pretenderà un bilancio e presumerà qualche ipotesi sulla rotta da seguire. Chi trascorre le giornate nell'officina di questa nostra associazione, con i suoi componenti, gli incontri, gli interscambi, le proposte, le intese, sa che sparpagliati tra i ricordi e le pagine si trovano frammenti della propria vita. Continueremo a viaggiare con la mente e con il cuore, riacciuffando il filo di una storia, misurandoci con il passato per essere incitati a vivere il presente e il futuro nel modo migliore. E i quaderni, il nostro periodico bimestrale che viaggia con noi da 18 anni, fu ed è uno strumento prezioso che ci aiuta a non limitare il pensiero. Così vale anche per le nostre quattro antologie. Le convinzioni maturate su questi fascicoli e durante i nostri incontri sono la rotta ideale capace di riempire sogni, di orientare aspettative e speranze. In ogni caso le idee di tutti questi anni hanno lasciato un segno profondo. Forse è per questo che la seconda antologia la chiamammo Insieme, la terza nel 2008 per i 25 anni di vita Ancora Insieme e l'ultima, la quarta, 30 anni insieme. La poesia è e sarà sempre un adolescente da scoprire ed amare, perché abita nelle stanze del nostro pensiero. Ed è proprio vero che la poesia non cerca seguaci, cerca amanti. Nuovamente l'ultimo brano di questa serata. C'è la seconda adesso. Non mi dice, pensavo che che questi due sul supporto sono proprio i precedenti. Abbiamo Ancora Insieme e Insieme, che è stato il primo con questa parola, insieme, stare tutti insieme, volersi bene, creare insieme. Questa è la cosa bella. Io vi ringrazio tutti, siete stati tutti molto cari. Un forte abbraccio da tutto il gruppo Poesia 83 e dal nostro musicista, maestro Stefano Cattolo.